versione di Oscar Giannino. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Cari ascoltatori, eccoci qua in diretta a 16:31 primi 14 secondi in questo lunedì 7 settembre. Avete sentito alla fine che cosa abbiamo scelto per la sigla che ci accompagnerà per un po' di tempo, vediamo quando, per l'impegno che avevamo assunto dopo due trimestri a più 0,3% del PIL di cambiare di SDN. Molti dicevano che portava sfiga, io non ci credo, credo che avessimo azzeccato anni fa con i Doors, perché ha espresso la cifra di una crisi abissale del nostro paese e non solo. E comunque avevamo aperto una gara tra di voi per chi voleva scriverci, segnalarci, mandarci sms, e abbiamo fatto poi a chiusura nel fine settimana una specie di top list dei brani che avevano più preferenze raccolte nelle segnalazioni. Devo dire che c'erano un po' di tutti, perché le vostre opinioni sono evidentemente, e ben ringrazio, ne terrò conto, molto, per così dire, distinte, in una forbice che va dall'ottimismo moderato, gli ottimisti estremi non ne hanno scritti, al pessimismo che resta ancora molto molto profondo. Tanto è vero, tra l'altro mi ha fatto piacere, che il più dei segnali che pervenivano come canzoni con maggiore segnalazione erano tutte del genere rock. Questo io ne ringrazio, perché c'è una sintonia evidentemente anche con me su questo, ma c'erano delle richieste molto contrapposte. Devo dire che i tre gruppi rock con le maggiori segnalazioni sono stati Deep Purple, AC/DC e Led Zeppelin. Figuriamoci, Led Zeppelin è un mito per me. Però quando dico che la forbice era molto separata, c'era chi chiedeva Smoke on the Water, che per chi conosce quel bellissimo brano nasce da un incendio notturno, quindi non esattamente il massimo ottimismo, ma le due forbici opposte erano rappresentate da chi chiedeva Stairway to Heaven, che è sicuramente un bell'ottimismo, no? Scalinata verso il paradiso, ha invece Highway to Hell, cioè che la strada verso l'inferno. Quindi diciamo che le vostre opinioni sono molto distinte. Alla fine abbiamo fatto la top della top, in cui c'erano dentro brani come Patti Smith, People Have the Power, che per me è un inno, ma nel nostro paese secondo me siamo più sudditi che cittadini, quindi sarebbe stato più che un brano di speranza addirittura un brano utopico, almeno nel mio giudizio, nel nostro paese, per come siamo trattati dallo Stato. C'erano brani di Ligabue, a dire la verità, che secondo me non erano adatti però per lo spirito, perché erano tutti più d'amore che d'altro. C'era qualche altra cosa, e c'era questo che avete sentito, Wind of Change degli Scorpions. Gli Scorpions sono una delle band europee che mi piacciono di più, fanno 50 anni quest'anno da quando il chitarrista ritmico fondatore Rudy Schenker li ha fondati, e questo brano in particolare divenne l'inno nel 1991 di tutta l'Europa, perché lo avevano composto alla caduta del muro. Loro erano uno dei pochi gruppi e delle poche stelle del rock che andava a suonare negli ultimi anni dell'Unione Sovietica oltre confine, come Ozzy Osbourne e pochi altri. E questo brano, che fu composto prima della caduta del muro in Germania, divenne poi nell'anno e mezzo successivo una specie di inno europeo, perché fu uno degli album di maggior successo degli Scorpions, proprio perché questa speranza del cambiamento nella notte in cui tutti i bambini potranno sentirsi fratelli ispirava molto. Allora, siccome siamo in una fase nella quale, come vedete, sui rifugiati sembra che cambia ancora una volta la storia europea, stavolta in positivo, vedere per credere, perché io ho molti timori su questo, a dire la verità, ma ne parleremo magari domani in un'altra trasmissione. Alla fine abbiamo scelto Wind of Change degli Scorpions, però il patto con voi è altrettanto chiaro di quanto sia stato nei trimestri precedenti: se la ripresa italiana riscende sotto e si frena, è il nostro dovere di giornalisti, non da personale del rock, è di tornare a quel punto fino a che non riprendono le cose positivamente, a This is the End dei Doors. Questa è la mia maniera di interpretare, spero il più vicina possibile alle vostre tante scelte, ma io devo ringraziare tantissimi di voi perché devo dire avete risposto in tanti, questo fa molto piacere a Radio 24, a me in particolare, e adesso vedremo quali sono le vostre reazioni a Window Change degli Scorpions, sperando che non vi sembri troppo smielato, perché il vero difetto di questo brano secondo me è che è diventato un po' un inno commerciale e a me questo non piace troppo. All'epoca mi fece sognare molto, sono passati un po' di annetti a dire la verità dalla caduta del muro, e quindi vediamo, ve lo dovevo spiegare, questa è la spiegazione. È chiaro che il giudizio finale ha avuto qualche punta di soggettività, però siamo andati sommando le vostre segnalazioni, grazie anche a chi naturalmente ha molto ironizzato, cioè a chi proponeva la barca va o cose di questo genere, però insomma diciamo che un pubblico più rocchettaro che melodico, poco italiano e molto invece sulla storia del rock. Questo, a dire la verità, non mi un po' mi ha stupito, ma non mi è dispiaciuto proprio per niente, a dire la verità. Allora, cominciamo questa settimana con un problema, come sempre, abbastanza serio. Un problema abbastanza serio perché riguarda, quindi, trasmissione che riguarda i piemontesi, ma non solo i piemontesi, alle prese con i problemi della sanità, perché io lo ammetto, in quanto piemontese, sono abbastanza attento da anni alla vicenda dei conti sanitari della mia regione, perché la mia regione è tra quelle che nel 2010, ormai 5 anni fa, fu obbligata a sottoscrivere il programma di rientro coatto dei suoi conti sanitari. Sono passati la bellezza di 5 anni. Ricordo che in totale le regioni italiane che hanno dovuto sottoscrivere patti di rientro coatto della sanità sono state 10, ecco, due di queste nel frattempo hanno esaurito il percorso, altre 8 restano invece a rientro coatto, quindi affiancate dal Ministero del Tesoro, e il problema certo è al sud, quello che volete, ma non è solo al sud, perché il Piemonte appunto da 5 anni fa i conti con i conti della sanità, la sua riorganizzazione secondo criteri di efficienza eccetera eccetera. Eravamo arrivati a ottobre dell'anno scorso a un sussulto ulteriore, perché quando la Corte dei Conti ha negato, per così dire, il giudizio di parificazione del bilancio della regione, in quel caso sul rendiconto 2013, la Corte dei Conti fece risalire il buco ancora stimato della sanità piemontese alla bellezza dei 2,3 miliardi. La regione si trovava, e ancora nel marzo del 2015 era ancora alle prese con l'approvazione dei rendiconti, dei bilanci di alcune ASL piemontesi che erano in ritardo di 3 anni, cioè conti 2012 e 2013, quindi il problema è rimasto. Abbiamo visto la settimana scorsa come il Piemonte, avendo oltretutto utilizzato risorse devolute al pagamento dei suoi debiti per altre spese correnti e in particolare per pagare la sanità, si trova adesso nel buco dei 20 miliardi accertato dalla Corte dei Conti per questi criteri contabili, ad essere, dopo la Regione Lazio, che di cui 20 miliardi ne totalizza oltre 8, ad averne a propria volta 3 miliardi. Quindi diciamo che c'è un problema ancora enormemente irrisolto, e la notizia di questi giorni che ci spinge la trasmissione è che ci ha spinto a invitare, per capire meglio come si fronteggiano queste cifre, l'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta, è quella che Antonio Saitta, di fronte a tutti questi rilievi e di fronte ai rilievi della Corte dei Conti sui bilanci delle ASL approvate a distanza di anni, con anni di ritardo, ha visto i rilievi della Corte dei Conti e a questo punto dice: io col cavolo che però pago ai manager delle ASL 2012 e 2013 premi che complessivamente valgono 400.000 euro. Allora, buon pomeriggio e grazie di essere con noi all'assessore della sanità del Piemonte Antonio Saitta. Buon pomeriggio, grazie. Spero nella sintesi di non aver una ricostruzione da piemontese perfetta. Ah no, vabbè, questo la ringrazio. Allora, il punto è, partiamo da questa storia, come ovvio, dei bonus negati. Tra l'altro la decisione dovevate prenderla proprio oggi, l'avete già preso? Sì, abbiamo detto di fermarci per valutare attentamente che cosa la Corte dei Conti ha detto. È chiaro che, come succede nel nostro paese, le questioni poi sono complesse, perché in questo caso qui parliamo del 2012, questo premio ai direttori se raggiungono gli obiettivi. Gli obiettivi allora definiti dalla giunta precedente erano obiettivi generici, non misurabili, devi garantire l'equilibrio, devi fare questo. In realtà si tratta di obiettivi molto semplici, infatti noi li abbiamo modificati, perché gli obiettivi ai direttori per avere i risultati devono essere articolati, monitorati da terzi e poi sulla base di quello si danno i premi. Io devo dire che mi trovo d'accordo, lo dico sempre, che nella pubblica amministrazione per i dirigenti bisogna che ci siano obiettivi chiari e quantitativi, ex ante in maniera tale da essere verificabili in maniera chiara e quantitativa, ex post. È chiaro che io adesso, come dire, se dico che l'obiettivo è l'equilibrio economico e non si fa nulla per la riduzione, io li chiamo sprechi, delle diseconomie, le centrali di acquisto, la farmaceutica, e raggiungo l'equilibrio non assumendo più personale, riducendo la produzione sanitaria, è chiaro che qui sono in grado di farlo tutti in sostanza, no? Mentre obiettivi articolati, quello che abbiamo dato, bene, tu aumenti la produzione sanitaria, riduci alcune spese, metti a posto i magazzini, cioè questo è il lavoro che, ahimè, va bene, però questo riguarda il passato, però gli obiettivi erano generici, per cui non... Ma adesso la domanda che faccio è, poiché siamo nel 2015, qui si sta parlando dei bonus 2012-2013, coloro ai quali gli allora direttori e dirigenti viene negata la corresponsione di queste somme, hanno formalmente però in termini amministrativi il titolo per fare l'impugnativo? Certo, però contemporaneamente ho anche la Corte dei Conti che mi fa qualche rilievo. Noi siamo giustamente presi tra la Corte dei Conti e magari un futuro TAR, quindi dobbiamo capire un po' bene qual è la modalità che ci permette di salvaguardare qualche principio, no? Come dire, di buona amministrazione, di coerenza, ecco, sul piano dei risultati, perché mi sembra questo. Poi in modo, questo è una, come dire, è una realtà, quella delibera di allora, addirittura gli obiettivi nel 2012 verranno definiti con una delibera del dicembre 2012, vedete, capisci? Come dire, era stata una costruzione, come dire, un po' particolare, ex post. Per cui più o meno tutti sulla base di quei parametri devono avere il 100%. Devo dire anche brutto, perché di questi direttori noi ne abbiamo confermati soltanto 4 sui 19 che abbiamo, come dire, in Piemonte, però devo dire che non tutti erano uguali, però applicando quei criteri sono tutti uguali, questo non funziona, cioè non mi pare possibile, ecco, anche come dire, studiando le modalità più sofisticate, eccetera, però quando è tutto 100% vuol dire che, no? I criteri sono molto... Io adesso le faccio una domanda che è obbligata, perché lei sa, la giunta precedente era colta a guidarla della Lega, era una giunta di centrodestra, voi ovviamente siete di diverso colore politico. A questo punto la destra insorge dicendo, in realtà questi provvedimenti sono punitivi e hanno una spiegazione politica, perché in realtà gli organi di controllo della regione, di fronte a quei criteri, non avevano obiettato. Come si risponde a questa obiezione? Perché sa meglio di me che poi agli occhi dei cittadini sembra sempre che la questione sia arriva uno e cambia le carte in tavola, come si fa a credere? Guardi, noi quando siamo arrivati 15 mesi fa avevamo questo come dire, obiettivo riferito dalla legge, stabilito dalla legge, di nominare i nuovi direttori. Qui ci siamo comportati con un criterio che ahimè non è che sia molto diffuso nel nostro paese, ma in ogni modo noi abbiamo applicato selezione pubblica in tutta Italia, commissione esterna, valutazione, problemi perché tutti volevano fare ricorso, perché il curriculum era più l'anzianità, tutte queste cose qui, poi alla fine nessuno ha fatto ricorso. Non abbiamo chiesto la tessera di partito a nessuno, no? E devo dire che questo è stato, come dire, non solo un vantaggio di cui sono convinto, ma ha evitato polemiche, non ci sono state grandi polemiche. Quindi io non so, dal punto di vista politico, i 19 nuovi direttori a cosa appartengono. Posso dire che a loro ho detto, voi non dovete dire grazie a nessuno, soltanto per le vostre competenze. Dovete nominare i direttori sanitari e i direttori amministrativi, mantenete la stessa libertà, perché se sbagliate ne rispondete voi. Ora, come dire, ma nessuno, centrodestra, non ha fatto polemiche di questo tipo, quindi come dire, non ci siamo posti questo problema dell'occupazione del potere, perché, che è un elemento, come dire, importante in tutta l'amministrazione pubblica. Io spero che questo sia un elemento anche innovativo, che mi pare ogni tanto emerge anche nel dibattito nazionale, che bisogna diffondere. Però mi pare che le polemiche sono, come dire, cioè noi non vogliamo punire nessuno, però devo dire ai cittadini, perché pago un premio del 100% quanto magari lì, come dire, in qualche maniera non approvando in tempo i bilanci, perché sono stati approvati un anno dopo, dice la Corte dei Conti, e non è che forse lì magari non si voleva concretamente rappresentare la situazione economica finanziaria e magari trasferirla negli anni successivi. Questo io sono preoccupato di questo. Ah no, no, figuri io che ogni volta scopro che nella mia regione, che la vecchia bandiera sabauda, di essere precisi, ogni volta mi trovo, come a marzo di quest'anno, la Corte dei Conti che dice: no, scusate, il rendiconto della regione che parla di 360 milioni di disavanzo, neanche per idea, il disavanzo era 2013, sono 2,3 miliardi, cioè 2 miliardi in più, e in più dice no, e cara Corte Costituzionale, sempre Corte dei Conti, marzo di quest'anno, noi abbiamo anche dei sospetti su due provvedimenti del 2013 con cui Torino ha stabilizzato di contabilizzare i fondi ricevuti dallo Stato come se fossero dei mutui, quindi per spendere di più, perché se davvero vogliamo essere rigorosi su questo, dice la Corte dei Conti alla Corte Costituzionale, allora dovremmo dire che il rendiconto finale 2013 del Piemonte, col cavolo che ha un buco di 360, cioè è sotto i 360 milioni, è sotto per più di 5 miliardi. Lei capisce che i cittadini che vedono, se il rendiconto dice meno 360 milioni e la Corte dei Conti dice no, momento, sono 5 miliardi, c'è un ordine di grandezza tale nella differenza, ripeto, stiamo parlando del Piemonte, sarebbe gravissimo in qualunque regione, tale per cui i cittadini dicono, vabbè, ma ci fate capire davvero com'è possibile che con i criteri di contabilità pubblica sia possibile giocare su buchi di questo tipo. È ovvio che chiunque abbia responsabilità in una piccola impresa, un artigiano eccetera, gli piacerebbe poter scrivere che le sue perdite sono 10 volte inferiori a quelle che magari poi un terzo esterno valutando sul bilancio dice no, sono 10 volte superiori. Allora la domanda che le faccio, ma la risposta, sperando che abbia ancora un po' di tempo perché so che ha una riunione tra un minuto dopo le informazioni sulla strada, è questo: a che punto siamo nel valutare davvero l'ordine del buco della sanità, ma complessivamente della regione Piemonte, perché questa forbice così aperta è una cosa di fronte alla quale nessuno ci capisce niente, non capita solo a voi, però certo è abbastanza seria una mispercezione dei dati contabili di quest'ordine di grandezza. Tra un minuto, strada. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business, scoprilo. Fluentis.com vi presenta. La versione di Oscar. Facciamo partire almeno per un po' di puntate anche alla ripresa Window Change di Scorpions. Siamo qui con l'assessore regionale alla sanità del Piemonte, Antonio Sait. Lo punto è il negare il premio attribuito ai dirigenti delle ASL in ritardo per anni, 2012-2013, con l'approvazione dei bilanci, si tratta di 400.000 euro, ma è una questione di principio. Perché? Perché i rilievi della Corte dei Conti su quei bilanci e nel complesso, ancora sul rendiconto complessivo finanziario dell'intera regione, non solo della sanità, apre un problema molto serio. Ripeto, è da 5 anni che la regione è in programma di rientro coatto, ma la domanda che faccio all'assessore a questo punto è sui conti 2014, visto che siamo oramai a metà del 2015. Voi partite da una stima di disavanzo del 2013 che di 360 milioni, come avevate detto, chi veniva prima di voi alla Corte dei Conti ha detto no, di 2 miliardi come dice la Corte, o addirittura in senso cautelare di 5 miliardi come dice la Corte? No, per quanto riguarda la sanità, dalle stime che sono state fatte concretamente, evitando di raccontare cose no, che non hanno senso, il disavanzo che è stato stimato dal nostro assessore per quanto riguarda l'assessore al bilancio per la sanità è intorno ai 2 miliardi, questa è la cosa. Però devo dire che noi siamo, come giustamente ricordava, in piano di rientro, ma una situazione simile c'è anche in regioni che non sono in piano di rientro. Ah no, no, per carità, certo. Allora, il tema che sapendo di dover gestire questo tema complesso della sanità, eccetera, noi abbiamo fatto quello che giustamente, quello che si chiama tavolo massiccio, cioè quelli che ci guardano, giusto, per fortuna, io dico per fortuna ogni tanto, no? Che è un controllo anche nazionale, noi abbiamo lavorato innanzitutto per far emergere tutta la situazione, quindi bilanci 2012, 13, 14 che sono stati già approvati, e per la pubblica amministrazione è una cosa straordinaria approvare i bilanci, no? Del 2014 erano già approvati. E quindi oggi abbiamo, come dire, il quadro chiaro, ma non è stata una semplice approvazione di un bilancio, ma attraverso l'advisor che il Ministero dell'Economia ci ha messo, siamo entrati anche nel merito delle questioni, proprio per far emergere tutto quello che in qualche maniera non era ben postato. Quindi il quadro sotto questo aspetto è chiaro e contemporaneamente, in seguito a questo lavoro che è stato fatto, abbiamo avviato le procedure che molte regioni, non in piano di rientro, hanno fatto, cioè strumenti di controllo per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che da noi è a un livello privo di senso, concentrazione delle gare d'appalto, che qui non venivano fatte, no? Ogni azienda si faceva la sua e abbiamo già registrato, cioè potrei continuare con la logica, l'accorpamento dei laboratori di analisi, no? Perché non ha, cioè tutto quel lavoro. Lei sa meglio di me che nella gestione precedente il tentativo di uscire in queste decisioni che bisognava prendere e che incidono naturalmente nel consenso dei partiti eccetera eccetera, anche affidato a un manager privato come Monferino, si infranse contro un muro, come era evidente. Questa volta l'abbiamo vinta, in più abbiamo fatto l'operazione che come dire, che ha senso sulla riorganizzazione, cioè il tema nostro in Piemonte, ma anche qui non mi pare che sia solo il Piemonte, che noi abbiamo un'eccessiva polverizzazione dell'offerta ospedaliera, cioè noi abbiamo strutture complesse, primariati, a bassa attività, e quando c'è la bassa attività non c'è sicurezza per i cittadini, pensi ad oncologia, no? Quando l'attività è bassa è chiaro che ci sono rischi enormi, abbiamo ridotto il numero dei primariati nella nostra riorganizzazione ospedaliera. E negli atti aziendali i direttori dovranno già entro l'anno ridurre di un terzo. Abbiamo ridotto il numero delle strutture complesse amministrative, la dimezziamo. Abbiamo ridotto il numero dei dipartimenti, cioè non è vero, io penso questo, che non ci sono spazi di contenimento nella spesa, perché i sistemi sanitari, parlo del Piemonte, nel tempo è cresciuto per una serie di esigenze diverse, è del consenso politico che chiedeva l'ospedaletto lì perché il primariato era... e il primario da sistemare, questa cosa qui ha creato un sistema che non è detto che garantisca la salute, anzi devo dire non garantisce, cioè quando c'è un reparto di oncologia che fa 50 interventi è meglio non andare. Sì, perché siamo al di sotto clamorosamente dei livelli tali che comprovano sicurezza. Allora stiamo cercando di fare una cosa che può sembrare male, dice dobbiamo tenere conto di cosa dice l'opinione pubblica. L'opinione pubblica sugli ospedali dice una cosa molto semplice, c'è una maggiore mobilità, va negli ospedali dove sa che lì c'è una maggiore specializzazione, è così. E noi rischiamo, se non ci adeguiamo, di mantenere un'organizzazione che costa e le persone vanno fuori, come è successo negli anni passati. Sì, sì. Vanno a farsi curare in Lombardia, in Toscana, in Emilia, nel Veneto, in Liguria. No? Allora, allora stiamo cercando di dire, se gli abitanti della Val di Susa, le donne incinte, non vanno a partorire a Susa, dove ci sono 80 interventi all'anno, 100, e vanno a Sant'Anna, vuol dire che le persone sanno perfettamente che cosa vogliono. No? La domanda che le faccio è, allora prendiamo per buona questa stima adesso dei 2 miliardi che ci ha detto, realizzata sul 2014, io dico prendiamo per buona, non perché diffidi di lei personalmente, No. Ripeto, se uno, lo dico ai nostri ascoltatori, se andate a vedere il resoconto sul Ministero della Sanità e del Tesoro, su entrambi i portali dei ministeri, dell'avanzamento dei piani regionali di rientro coatto per tutte le regioni che hanno i piani di rientro sanitario, e se andate a vedervi quello della regione Piemonte, troverete addirittura che dal quarto trimestre 2011 sono vantati degli avanzi correnti di gestione, poi naturalmente sono vantati, poi uno va a vedere dopo e le stime vengono corrette al ribasso, però detto questo quello che le chiedo è, quando si eredita ancora in termini di miliardi un buco precedente, a questo punto esiste lo spazio per arrivare a un pareggio attraverso la gestione corrente, oppure bisogna dire caro Stato a questo punto ce ne ha buoni X? Io è chiaro che questo tema si porrà no, nazionalmente. Io posso dire che per quanto riguarda la situazione su quale abbiamo, ma non per scaricare il passato, la responsabilità del 2014 e 2015, abbiamo lavorato per stare dentro il fondo, il trasferimento nazionale. Noi riceviamo, come dire, dallo Stato sui 110 miliardi, 8 miliardi e stiamo dentro gli 8 miliardi. Quindi insomma, l'esercizio corrente a questo punto è in pareggio. Caro Stato, temo che i miliardi sommati, sono tanti quelli della sanità, però in queste condizioni ereditate dal precedente, crea un grande problema. Attenzione alla legge di stabilità per tutti e attenzione a noi come pazienti. Intanto grazie all'assessore.